non sei tu. Dimmi perché il tuo sorriso forestiero non ha tabù. Eppure sento che abbia un senso, che tutto è scritto già, che questa terra sconosciuta anche un po' mia diventerà. Dimmi chi sei, la tua voce la conosco, un déjà vu. La sento che è caso un cielo che qui non ha lo stesso blu. Eppure sento che abbia un senso, che tutto è scritto già, che questa terra sconosciuta che un po' mi diventerà. Perché parla di te, stella in mezzo all'ignoto, tu che ridi basta un attimo. Sei tu il mio posto, donna che viti mai, ma capisce il mio mondo, e me libero senza dolore, il tempo adesso è ostaggio. Cuori stranieri abbracciati, ma il fiume con sé mi porterà sotto un velo di stelle. Il suo sguardo mi interroga, guarda ancora quel fiume, ma non so che con sé mi porterà, mi porterà. Sotto un velo di stelle, i ponti di